Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Da quando le imprese agricole si sono dotate di impianti a biogas, hanno iniziato a elaborare delle nuove pratiche agronomiche con lo scopo di superare il problema ben noto della competizione tra colture alimentari e colture energetiche, e anche per cercare di integrare al meglio nel ciclo di produzione agricola la digestione anaerobica, cioè quel processo di fermentazione che trasforma scarti organici o colture dedicate in biogas e in un compost, diciamo così, ricco di nutrienti che le imprese agricole utilizzano come fertilizzante e ammendante del terreno. Questo compost prende il nome appunto di digestato. In questo filone si inserisce la diffusione, a cui si comincia ad assistere soprattutto in pianura padana, di una nuova pratica agronomica che va sotto il nome di doppia coltura. Di recente, su richiesta del CIB, il Consorzio Italiano Biogas, la società internazionale di consulenza Ecofis, in collaborazione con il Centro di Analisi dei sistemi colturali dell'Università di Wageningen nei Paesi Bassi, e con il CRPA, cioè il Centro di Ricerca e Produzioni Animali di Reggio Emilia, ha valutato l'impatto ambientale di questa pratica, e i risultati sono incoraggianti. Ne parliamo con il presidente del Consorzio Italiano Biogas, Piero Gattoni. Buonasera. Buonasera Melissa. Allora, senta, intanto che cosa si intende appunto per doppia coltura o anche coltura integrativa? Che cosa consiste? La doppia coltura è una pratica che agronomicamente è sempre stata adattata, diciamo, è la pratica storica. Si tratta di coltivare i campi sia nel periodo autunnale, tipicamente con dei cereali autunno-vernini come il frumento o il triticale, e poi in primavera seminare quella che viene chiamata la coltura principale, che viene seminata in primavera e porta poi a raccolta durante l'autunno. Quindi si tratta quindi di un sistema in cui il terreno viene tenuto coperto per tutto il periodo dell'anno. Invece di rimanere a riposo per i mesi invernali, cioè di lasciarlo nudo così com'è, sostanzialmente lo si coltiva. Ma come mai era stata abbandonata allora questa pratica? La state recuperando? Cosa sta succedendo? Ma l'origine è sostanzialmente economica. Da quando l'agricoltura si è data come missione principale la produzione di commodities, il prezzo internazionale delle commodities è calato, per cui diventava meno conveniente coltivare due volte i terreni piuttosto che uno solo. Quindi diciamo era il modello agricolo della prima rivoluzione agricola ci ha portato a cercare di intensificare tutti gli sforzi su una produzione unica. Oh, ok. Mentre... Ecco, perfetto. Okay. Quindi invece che cosa cambia con l'introduzione del biogas e della fermentazione anaerobica? La digestione anaerobica è stata per noi un elemento innovativo importantissimo, perché ci ha dato un nuovo mercato, che è il mercato energetico, che noi da italiani amanti della nostra produzione agroalimentare abbiamo voluto inserire integrandolo alla produzione food. Quindi di fatto, avendo anche questo mercato, siamo tornati a cercare di intensificare l'uso del terreno. Del terreno. Quindi d'inverno sostanzialmente coltivate delle specie che sono dedicate alla digestione anaerobica. Ecco, quali sono i benefici dell'adozione di queste colture integrative, del ritorno alle colture integrative, direi? Ma quello che emerge dallo studio di Ecofis, che per noi è estremamente confortante, è il fatto che ritornare a questa pratica culturale permette innanzitutto di aumentare l'azione fotosintetica delle colture vegetali, quindi di fatto il terreno torna ad essere una pompa maggiore di anidride carbonica nel terreno. Quindi produciamo più carbonio e non andiamo quindi ad essere in competizione, come dicevi in introduzione, col settore food. Inoltre andiamo anche a migliorare quelli che sono gli effetti di discivazione, cioè di erosione del terreno. Di erosione che si avevano quando il terreno veniva lasciato incolto. Per gli ascoltatori, si pensi, quando viaggiano lungo un'autostrada autunno, è facile immaginare il terreno incolto, sottoposto all'acqua, eccetera, eccetera, l'erosione. Ecco, un'obiezione che posso immaginare venga a molti ascoltatori, dicono: ma come, quel terreno, invece di lasciarlo a riposo, se ci coltiviamo su altra roba, alla fine lo sfruttiamo però ancora di più. Invece no, è questo un po' che viene fuori anche da questa ricerca, no? Da questa ricerca viene fuori proprio questo, ma è il frutto del fatto che la digestione anaerobica, essendo come un grosso rumine che produce poi al proprio alla fine letame che è un digestato, che è un letame, ci permette poi di avere, quindi alla fine del processo, questo fertilizzante organico molto utile che riporta sostanza organica al terreno. Quindi noi possiamo ritornare a dare gli input necessari al terreno e ridurre anche l'utilizzo di fertilizzanti chimici. Ecco, quindi insomma, complessivamente in realtà questa coltura in più fa sì che si possa sequestrare più CO2, aumentare il contenuto di carbonio del terreno, ridurre i quantitativi di fertilizzanti che vengono utilizzati per la coltura principale. Insomma, niente male. Va bene, grazie Piero Gattoni. Grazie Melis e buonasera a tutti. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.